Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E naturalmente il nostro programma è anche di Riccardo Silvi, il nostro redattore, di Valerio Rocchetti, il nostro regista. Oggi sarà di una persona che, adesso ve lo dico subito, quando è entrato in redazione, questa è una redazione, quella romana, abitata da giovani, e abbiamo così assistito all'entrata di un carisma. Benvenuto Paolo Bonacelli. Grazie mille. Perché appena il maestro Bonacelli è entrato, anche i nostri giovani, si è visto, stavano di fronte a cos'è? L'emozione che Bonacelli rappresenta, il mito. Sì, questo mi piace. No, sono di famiglia, come no? Con certi giovani sono di famiglia perché mi hanno visto recitare in certi film che li hanno accompagnati nella loro vita, cioè Gianni Stecchino, per esempio, Non cessa che piangere, che so che giovani se lo sono visti anche 10-15 volte, no? Perché e sanno anche a memoria le battute che dico lì in quei film, e questo a me fa molto piacere, perché è il risultato di un certo tipo di lavoro. Poi magari uno ha fatto anche altre cose, non solo quei due film lì, ma questo è stato una punta che ha preso i giovani, ha avuto un grande esito, un grande risultato. Sono film comici. Oltre 70 film nella carriera di, sì, Paolo Bonacelli, e tante, tante, tante cose che abbiamo visto in televisione, al teatro, e ricordiamo che fino al 15 febbraio è al teatro Ambra Iovinelli e presenta, in collaborazione con il Teatro Stabile della Sardegna, Aldo Moro, una tragedia italiana di Corrado Augias e Vladimiro Polchi, con appunto Paolo Bonacelli e Lorenzo Amato come protagonisti. La storia che continua, o una storia che si fa presente, o un presente che ha radici nella storia, in questa tragedia? Un po' di tutto questo, nel senso che questo spettacolo, che nasce appunto un'idea di Corrado Augias e Vladimiro Polchi in collaborazione con Giorgio Ferrari, che è il regista, e vuole in qualche modo presentare a due, diciamo due, una è ricordare quel fatto drammatico e tragico di 30 anni fa, di 31 anni fa adesso, e l'altro è di ricordarlo, ma di farlo conoscere, perché molti giovani, per esempio, non ne sanno quasi niente. E non è che prenda posizione su uno spettacolo che decide su quello che, per esempio, fu il dibattito di allora sulla fermezza o la possibilità di trattare, no? Che ci fu nel momento in cui Moro venne rapito, ma espone che ci furono queste due contrapposte atteggiamenti, queste contrapposte tesi, e soprattutto attraverso, questa è la cosa più bella secondo me dello spettacolo, attraverso le lettere di Moro si riesce a conoscere bene chi era Moro, che cosa era Moro, sia come uomo politico che come uomo privato, diciamo, no? E quelle lettere che sono in tutto 94, quelle che noi sappiamo, che sono state venute fuori in tre fasi diverse, anche a distanza di 20 anni, quelle lettere sono 94, noi, io ne dico e ne recito 14, che sono alcune politiche all'inizio e poi piano piano verso quelli che si potrebbe chiamare come quelli di Petrarca, lettere ai familiari, che, in cui lui si rivolge ai parenti, alla moglie soprattutto, e alle figlie, al nipote, no? Ed è come dire, un cammino di Aldo Moro, dai primi giorni della prigionia fino alla fine tragica, dopo 55 giorni. So che la frase con cui iniziamo questo nostro percorso oggi è tratto appunto da questo da una, sì, lettera. E qual è questa frase, maestro? La frase è: io non assolverò né giustificherò nessuno, il mio sangue ricadrà su di voi, sul partito, sul paese. È una specie di invettiva che Moro lancia attraverso una delle lettere inviata al segretario della Democrazia Cristiana Zaccagnini, in cui comincia a capire, penso che le notizie che riceveva erano in parte le lettere che qualcuno scriveva a lui, ai carcerieri, e in parte le notizie che gli davano i carcerieri. Comincia a realizzare che probabilmente non c'è la volontà di liberarlo, non si fa nulla per liberarlo, non si, e la tesi della fermezza ha la ragione rispetto alla tesi della trattativa. E questo per lui è molto, è assai deludente, voglio dire, nel senso che lui ha sempre sperato, e questo anche se poi ci sono varie tesi, non sono uno storico, che dicono che lui in effetti in qualche modo ha perso un po' della sua statura andando a ricercare un po' la possibilità di trattare di uscire dalla prigione. Io personalmente, e penso che alla luce di 30 anni passati si capisca invece molto bene qual è la sua intenzione. Lui evidentemente aveva capito alcune cose e disperatamente, indipendentemente da quello che era la sua personale integrità o la sua esistenza, voleva uscire da quella prigione perché pensava, e questo lo penso anch'io, avrebbe fatto bene agli italiani sapere certe cose che lui era riuscito a capire, di cui forse aveva anche le prove. Ma forse qui c'è anche un problema che lei come uomo di spettacolo può aiutarci a comprendere, sì. Perché al di là delle buone intenzioni, delle ottime intenzioni con cui ognuno di noi compie questo gesto quotidiano, noi usciamo di casa sempre con una maschera. Anche Moro aveva la sua maschera come democristiano, come professore universitario, come ministro, come primo ministro, era obbligato a prendere una maschera. Poi però ci sono delle situazioni in cui tra una maschera e l'altra si resta a volto nudo. È un attore che le maschere le indossa anche più volte durante la giornata. Quando si trova a volto nudo, cosa rimane? A me piace pensare a un Moro che a volto nudo ha la forza di lanciare questa inventiva che è un po' evangelica, un po' anti-evangelica, è tutta umana. Io penso che quando ci si fa conoscere meglio, ci si conosce meglio, no? Le maschere sono utili, sono nella rappresentazione quotidiana dell'esistere, della vita, sono utili, sono anche divertenti, sono una necessità. E quando si è senza maschera però le persone forse diventano più interessanti, più offrono anche dei lati oscuri di loro, dei lati sconosciuti che possono far capire meglio sia se stessi che anche quello che li circonda. Io penso che è proprio questo interessante, anche se proprio appunto è il suo l'aver perso in certi momenti di queste lettere, attraverso le lettere, la sua maschera è molto utile anche per conoscerlo meglio. Certamente io mi ricordo, perché ero ragazzo, mi ricordo il suo modo di parlare, che era così difficile, no? E in qualche momento anche paradossale, le convergenze parallele, un esempio, no? Però poi si capisce attraverso proprio queste lettere che quella maschera lì era in fondo una necessità e che all'interno del mondo politico tutti lo sapevano che c'era questa maschera e tutti in fondo lo rispettavano e in fondo includeva anche un certo tipo di, come dire, non dico timore, ma era considerato molto come una persona che aveva una sua strategia, che perseguiva anche indossando quella maschera. E questa strategia che secondo me hanno poi cercato di rendere vana e ci sono riusciti, ecco. E, le lettere sono il mio modo di recitare, diciamo così, è di andare fino in fondo al testo, di studiare nei più piccoli risvolti il testo che mi viene dato, che mi tocca di rendere. E io dopo 118 repliche, abbiamo fatto 118 repliche, tuttora scopro dei giri di parole, delle allusioni che non avevo capito fino alla 116esima replica, perché quelle lettere erano studiatissime, erano ponderate, ogni frase, ogni parola era pensata, era rivolta a qualcuno, ed aveva in mente aveva in mente la disperata ricerca di uscire da questo per poter, secondo me, essere ancora utile al paese. Per noi. Io sono abbastanza convinto di questo. Poi certamente, gli attori quando fanno un loro lavoro cominciano ad amarlo profondamente, no? Perché se no non reggerebbero forse. No, ma sto anche pensando questo, a un altro problema che un uomo di, diciamo così, un uomo di teatro può, per così dire, illustrare a noi poveri spettatori, perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a dei problemi di linguaggio, perché magari quando eravamo giovani certe affermazioni venivano fatte con un linguaggio che era strutturato secondo alcuni stilemi, non solo formali ma anche sostanziali. C'erano magari parole anche, diciamo così, che erano usuali allora, che ora sono diventate perente. Lei parte, diciamo così, dall'Accademia di Arte Drammatica con i testi auri di Pirandello, poi arriva attraverso, diciamo così, tutta una serie di personaggi che hanno usato la parola, Pasolini, Salò e 120 giornate di Sodoma, per esempio, ma anche altri, ad avere dei testi alti. Lei se lo immagina, diciamo così, una volta in cui il teatro comincerà a usare il linguaggio dei giovani di oggi? Per esempio, se l'immagina una tragedia come quella di Aldo Moro descritta con il linguaggio che si usa sulla rete, o il linguaggio che si usa sui flash di agenzia lanciati sui telefonini? Sì, io penso che... Io non riesco a immaginarlo, perché non bisogna essere molto addentro a questo mondo. Io lo sfioro appena, non sono così uno specialista. Io penso che ci saranno due linguaggi, un po', io penso, che non riuscirà il linguaggio, se non dopo tanti anni, a essere il linguaggio comune, quello che si usa oggi in internet e sui telefonini. Penso che ci voglia un po' di tempo, ma certamente poi sarà molto interessante cogliere questo passaggio e soprattutto sentire che cosa viene fuori con quel linguaggio. Quello che posso dire è che oggi a questi ragazzi che noi vediamo, perché 118 repliche abbiamo incontrato dei pubblici giovanili, il linguaggio di Moro riesce molto chiaro. È chiaro, è anche però da sottolineare che nello spettacolo non ci sono soltanto le lettere di Moro, ci sono immagini, ci sono discorsi, ci sono varie altre cose che aiutano a capirlo. E però i giovani questo linguaggio lo capiscono benissimo. Il teatro di cui stiamo parlando è l'Ambra Iovinelli di Roma, e la rappresentazione attualmente in corso è quella intitolata Aldo Moro, una tragedia italiana, di Corrado Augias e Vladimiro Polchi, con Paolo Bonacelli che ne è l'interprete e che è oggi la nostra guida. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Paolo Bonacelli, la nostra guida questa settimana. Siamo partiti da una frase del lavoro attualmente rappresentato a Teatro Ambra Iovinelli di Roma, intitolato Aldo Moro, una tragedia italiana, di Corrado Augias e Vladimiro Polchi, lavoro del quale Paolo Bonacelli è l'interprete. E con lui stavamo, per così dire, sviluppando un tema interessante, ma adesso vorrei così riproporlo, perché poi in realtà per chi offre parole, per chi, per così dire, inanella parole, adorna parole su un palcoscenico, oggi come oggi affermare che i ragazzi, i giovani che vengono, 110 rappresentazioni e comprendono le parole di Moro, le immagini e le altre parole correlate, sembra quasi un piccolo miracolo, perché, non so, se pronunciassimo la parola matrimonio oggi, qui ne siamo 4-5 in uno studio, avremmo 5 interpretazioni diverse, non so, neanche oso pensare lo svuotamento che subiscono parole che sembravano immutabili, come famiglia. E come lo vede un attore questo? Ma io ho delle controprove, nel senso che... Ed essendo poi io un attore di parola, perché oltretutto poi non ci sarebbe, non è neanche concepibile la mia la contrapposizione con un attore di movimento, perché attori di movimenti, movimento soltanto, sono mimi, sono altre cose. Ma io penso che ci sia una grande voglia di capire semmai sia parole come matrimonio e famiglia, per poi poterle magari usare nella maniera che il giovane ritiene più adatta a se stesso, la situazione che lo riguarda. Faccio un esempio molto semplice. Io recentemente alla radio ho fatto una, ecco, per esempio, vanno molto oggi i cosiddetti reading, no? Che sono delle letture di classici soprattutto, e proprio questo i giovani riescono, che anche Mori in qualche modo è un reading, perché sono, c'è anche un personaggio che poi riunisce, Lorenzo Amato, che unisce un tessuto connettivo, il testimone, il giornalista, il commentatore, no? Che cita Pasolini, Sciascia, per esempio, e altre cose. Ecco, quello che è il reading. Il reading è soltanto parola. Io ho fatto recentemente alla radio, quindi più parole, no? Ci possono capire gli ascoltatori, più parole della radio non c'è. Io ho fatto un reading del De Profundis di Wilde. Questo reading, e sono arrivati, poi ecco questo è bello, sono arrivati tanti SMS, tanti messaggi. Uno di questi, per esempio, adesso l'ho uscito perché mi ha commosso. Uno che, sentendo questa cosa che durava circa un'ora, ha detto: io mi sono fermato, stavo in macchina, sentendo questa cosa, sono fermato e mi sono messo a piangere. E questo dimostra che la parola ha una potenza emotiva che difficilmente le abbreviazioni, le cose possono riprodurre. E quindi penso che ci sia tutta una possibilità e un mondo da poter scoprire riguardo all'uso delle parole. E certo, io spero che non si perdano queste. D'altra parte penso che la scuola però non è che stia rinunciando del tutto a trasmettere parole o a libri. Per esempio il successo che hanno i libri, magari non li leggono però li comprano, questo è già un fatto molto positivo, no? E certo, poi bisogna vedere quali libri, che cosa trasmettono questi libri, insomma il discorso si fa complesso. Sulla parola, sulla forza della parola, penso che ci sia ancora siano delle grandi chance per chi la usa in maniera appropriata, netta e anche un pochettino demodé, diciamo, no? Ecco. Sì, perché a volte riceviamo così, sì, perché affrontiamo argomenti anche importanti, sì, riceviamo delle mail appunto che ci fanno osservare come certe cose siano belle da sentire, poi nei rapporti interpersonali non si riesce a dirle, però probabilmente per comunicare intanto bisogna cominciare a parlare. Per parlare magari si può anche pensare, pensando si possono scegliere le parole o si possono anche proporre silenzi e pause. Forse il teatro, se ci fosse, diciamo così, un accesso anche più immediato, e speriamo che la scuola lo stia facendo, perché nei miei tempi qualche professore lo faceva, ma più delle volte si limitavano alle canoniche poesie imparate a memoria e finiva lì, insomma. Mi avessero anche insegnato appunto un po' di metrica, un po' di espressione, mi avrebbe aiutato molto di più. Poi c'è da pensare anche su, per esempio, i testi delle canzoni, che sono, no? Sono grandi lingue, sono grandi modalità di linguaggio. Ma io penso che infatti uno dei tanti motivi di questa generazione di giovani che si vuole per forza considerare come se fosse una generazione di distratti, anche il successo di alcuni cantautori a posto di altri, proprio questa specie di ricerca di poesia, che sanno vedere dentro il testo, anche magari prescindendo dalla musica, perché a volte francamente qualche autore sembra che musicalmente suoni sempre la stessa canzone, però cambia le parole. Sì, le parole sono importanti, perché poi le si trovano nei linguaggi quotidiani, e quindi non, indipendentemente dal suono, questo lo vedo abbastanza frequentemente io. Poi io mi sono per un certo periodo anche dedicato alla musica rock, per esempio, perché c'avevo dei figli che se ne interessavano, allora anche io. E lì i testi sono molto interessanti, sono testi che poi riguardano poi la realtà, senza andare ai messaggi dei telefonini, Quello penso che sia una cosa utile per comunicare, ma si rimandano sempre, spero che sia così, rimandano sempre poi a un contatto personale, rimandano sempre a un incontro, alla speranza di un incontro, non si fermano alla semplice trasmissione di messaggi. Penso che ci sia sempre la speranza di conoscere qualcuno, di vederlo, di frequentarlo, di approfondire la conoscenza. Insomma, io sono ottimista. Come l'Italia ha visto dopo tanti anni, soprattutto da un palcoscenico, maestro? Beh, vedi, io penso che ci siano stati due, cioè, che questo proprio la cosa di Aldo Moro, che il fatto il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro sia stato e sia uno spartiacque nella storia italiana. Lo pensavo prima, adesso piano piano lo pensavo in maniera indistinta, adesso ci sono degli storici, perché appunto non faccio lo storico, perché cominciano a riconoscerlo questo e forse non lo vogliono riconoscere altri. È stato un evento che ha cambiato un po' poi per la storia nostra, e la politica è cambiata, come penso che alla fine degli anni 70 l'avvento per esempio della televisione commerciale è stato anche quello un fatto molto importante nella società italiana. E penso che non c'è la controprova, ma sicuramente la strategia di Moro non era quella che poi si verifica, è un'altra cosa da come è andata la storia in Italia. E, però certamente si può prevedere che sarebbe stata diversa, poi come non lo faranno delle ipotesi, chi se ne intende di più. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa riflessione teatrale sull'anno in cui abbiamo tutti perso l'innocenza è rappresentato al Teatro Ambra Iovinelli di Roma, si intitola Aldo Moro, una tragedia italiana, di Corrado Augias e Vladimiro Polchi, con Paolo Bonacelli e Lorenzo Amato come interpreti. Bene, grazie maestro per essere stato la nostra guida questa settimana. Grazie a voi. Grazie a chi ci segue, grazie a Riccardo, grazie a Valerio, redattore e regista di questa trasmissione. A risentirci.